11:20, un assolato e silenzioso San Pietro e Paolo qua a San Lorenzo. Come fossi ancora vivo, ma io vivo non sono più, sono polvere, sono dolore, non ho più figli, non ho più amore, sono polvere la storia. Oggi informazione completa, nonostante gli incidenti che sono capitati al mio collega alla fine del mese scorso. Dalla terra e dal cielo per portarmi dove non lo so, su questo treno vecchio come il silenzio, come il... Sì, alla fine della settimana scorsa in realtà. Lontano di una condanna che non so capire, stringendo forte... Di lui, parte di questa stessa redazione, è poi direttamente responsabile, per quanto lo dica con voce neutra. Ma il fatto lo dica con la sua viva voce vuol dire che le conseguenze non sono poi così gravi. Con il mio viso, con il tuo sorriso, ma che muoia la carne tra la rabbia e il silenzio. Non importante, non fa poi così male che bruci i numeri incisi col fuoco. Farò del fuoco la mia via pesca. E allora alle 12:22 andiamo così a cominciare questa puntata odierna di Maldestra, una puntata che cade proprio oggi, che è il 29 di giugno, quindi la vigilia dell'anniversario delle rivolte di Genova 60, e noi proprio di questo volevamo andare a parlare nel corso della puntata di oggi, una puntata in cui non andremo tanto a raccontare appunto le iniziative che magari, di cui la radio darà notizia nella giornata di domani, il corteo che si svolgerà a Genova e quant'altro, quanto anche un ricordo di cosa sono state quelle giornate e cosa hanno significato quelle giornate anche per questo paese. Ancora vivo, ma io vivo non sono più, sono polvere, sono dolore, non ho più figli, non ho più amore, sono polvere voi. E come introduceva il mio collega, abbiamo aperto il primo collegamento di oggi, abbiamo in diretta da Torino, se non sbaglio, Marco Scavino della redazione di Zapruder, la rivista di storia della conflittualità sociale che proprio al rapporto fra movimenti sociali e piazze aveva dedicato tra l'altro non solo il suo primo numero, se non ricordo male, ma anche il numero 20, cioè il, diciamo, l'ultimo del 2009, curato tra l'altro da Marco Scavino stesso. Ora, intanto un saluto per accertarci anche che il collegamento sia effettivo. Pronto, ci sente? Ci senti? Certo. Buongiorno. Allora, dicevamo, oggi siamo al 29 di giugno, si avvicina questo cinquantenario di Genova 1960, o meglio, direi il cinquantenario di quel giugno-luglio 1960, particolarmente importante per la storia della nostra Repubblica, per gli anni, diciamo, più i primi anni della Repubblica, diciamo, nata dopo il fascismo e la guerra di liberazione. Una, diciamo, una data che ovviamente per quanto faccia parte del DNA un po' della nostra storia recente è sicuramente tenuta un po' sulle seconde linee della memoria storica di questo paese. Ora con te inizierei una riflessione su quello che era proprio il peso di quelle giornate sul contesto politico di quei giorni. Ricordiamolo, era in era il governo un'alleanza fra sinistra, fra centro e destra, supportata dai voti dell'MSI, che appunto a Genova avrebbe dovuto tenere il suo congresso nazionale, quindi una, diciamo, in qualche maniera un contesto già di per sé teso dalle conflittualità sociali che si muovevano nel paese, ulteriormente esacerbato ovviamente da questo supporto dato dal insomma, neofascismo alla compagine di governo. Ti lascio la parola appunto intanto per inquadrare un po' gli eventi di quel giugno-luglio 60. Ma certo, questa è una delle pagine più importanti della storia d'Italia nel periodo repubblicano ed è anche, credo, una delle pagine in questi ultimi tempi più sottaciuta o più dimenticata. Forse perché non è bello, non è di moda ricordare un periodo storico in cui era sistematico non solo l'intervento repressivo delle forze di polizia nelle piazze, ma anche era sistematico l'uso delle armi da fuoco in funzione di ordine pubblico. Tra l'altro è bene anche ricordare che quello era un periodo, primavera estate del 1960, era un periodo di intense lotte sociali e sindacali. Pochi giorni prima, il 27 di giugno, nel corso di uno sciopero sindacale a Palermo, c'era stato un intervento della polizia molto duro con oltre 30 feriti. È vero però che l'attenzione generale era sull'aspetto politico, cioè il governo centrista guidato da Tambroni era in enorme difficoltà proprio perché si reggeva in Parlamento solo sul voto determinante del Movimento Sociale Italiano, cioè del partito neofascista. Questo aveva creato molte difficoltà all'interno stesso della Democrazia Cristiana. È bene ricordare che la Direzione Nazionale della Democrazia Cristiana, già nel mese di aprile, aveva espresso forti riserve sulla formazione di questo governo. L'episodio scatenante fu la decisione da parte del Movimento Sociale Italiano di tenere il suo congresso nazionale a Genova, decisione sicuramente provocatoria. Genova era una delle città medaglia d'oro della Resistenza, ma si era anche annunciato che a presiedere il congresso del MIS dell'MSI sarebbe stato l'ex prefetto di Genova del periodo della Repubblica di Salò, Basile, che era noto per essere stato un torturatore di partigiani. Tutto questo aveva provocato inizialmente a Genova una situazione molto tesa, uno sciopero generale. Ed ecco quindi che arriviamo al 30 di giugno con una decisione da parte del governo di ordinare l'attacco deciso da parte della polizia. Questo a Genova, ci sono incidenti anche in altre città italiane e di quel periodo l'episodio più tragico è quello poi del 7 di luglio a Reggio Emilia, in cui la polizia interviene con un uso massiccio di armi da fuoco e provocando 5 morti, i famosi morti di Reggio Emilia. Questa vicenda dal punto di vista politico ha un suo sbocco importante con le dimissioni del governo Tambroni che avvengono il 19 di luglio. Cioè è un caso nella storia italiana in cui la piazza, ciò che avviene nelle piazze, la protesta, l'indignazione per il comportamento della polizia hanno un effetto politico forte. Dopo la caduta del governo Tambroni, la classe politica italiana, quella democratico-cristiana in primo luogo, prende atto della impossibilità di gestire politicamente il paese con soluzioni orientate a destra. E quindi da lì avrà inizio quella lunga e tormentata fase della storia politica italiana che pochi anni dopo porterà alla formazione dei governi di centrosinistra. Tra l'altro tra gli eventi, ora ovviamente te sei di Torino se non sbaglio, per noi ovviamente da Roma è anche importante il legame con la piazza di San Paolo, di Porta San Paolo, dove non casualmente si erano radunati il 6 luglio le forze del centrosinistra, gli ex partigiani, i partiti, tra l'altro presenti in piazza e tra l'altro duramente caricati. Insomma, passa abbastanza la storia di questa città quella giornata del 6 luglio, sia perché c'è una continuità diretta e non casuale con le vicende subito seguenti l'8 settembre del 43, quando proprio a Porta San Paolo si svolse la resistenza più accanita contro i nazisti e i fascisti. Certo, scusa, me l'ero tenuto per ricordarlo dopo questo episodio. Okay. Anche per la curiosità che a guidare le truppe dei carabinieri a cavallo a Porta San Paolo era Raimondo D'Inzeo, che pochi mesi dopo divenne una specie di eroe nazionale perché vinse una medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma. Insomma, era la stessa persona che aveva guidato le cariche in piazza. Sì, in quei giorni, in quella giornata, tra l'altro, la misura fu abbastanza colma, nei termini in cui gli stessi esponenti dei partiti, appunto da appena 15 anni comunque usciti dalla resistenza, furono tra l'altro alcuni arrestati, in molti vennero picchiati selvaggiamente. Insomma, una linea di demarcazione che, insieme ai morti di Reggio Emilia, di Catania, se non sbaglio, anche proprio in quegli stessi giorni avvenivano scontri a fuoco in molte piazze italiane, come stavi ricordando tu, cioè scontri a fuoco più che altro la polizia e i carabinieri che sparavano sui manifestanti. Insomma, procurò, costruì un po' l'immagine di un sistema repressivo che comunque per molto tempo in qualche maniera determinò anche una trasformazione della gestione delle piazze, quantomeno alla piazza Statuto, che avvenne più o meno esattamente 2 anni dopo, sempre nel luglio del 62. Comunque è un passaggio anche non secondario quello del rapporto fra il potere e la piazza in quelle giornate di giugno-luglio. Certo, è bene sempre ricordare che la storia italiana nel secondo dopoguerra è stata caratterizzata da una politica dell'ordine pubblico estremamente repressiva. Non erano episodi isolati, era una scelta politica, soprattutto dopo la rottura governativa del 47 e poi le scissioni sindacali del 48. Non erano episodi isolati quelli di poliziotti e carabinieri che intervenivano con armi da fuoco. È spaventosa la sequenza di morti durante proteste politiche o sindacali. Nel numero della rivista che ricordavate in apertura, il numero 20 di Zapruder, noi abbiamo cercato di problematizzare questo problema dal punto di vista storico, in questo senso. Non c'è dubbio, da un lato, che dopo gli avvenimenti di Reggio Emilia, di Roma del 1960, dal punto di vista delle politiche repressive in piazza ci sia stato un cambiamento, un relativo cambiamento, visibile negli anni del centro-sinistra. Cioè, detto in maniera piuttosto brutale, il numero dei morti ammazzati diminuisce drasticamente, iniziano a diventare degli episodi. D'altro lato, però, questo non vuol dire che sia cambiata la logica complessiva del sistema. Semplicemente si è operato in maniera diversa, per la buona ragione che si voleva inglobare nell'area del potere innanzitutto il Partito Socialista Italiano e in maniera indiretta una componente del sindacato, e quindi si voleva instaurare un rapporto diverso, per fortuna dico io, con le opposizioni anche comuniste in Parlamento. Ciò non toglie che la storia italiana, anche dopo quella stagione, abbia continuato a essere caratterizzata da un uso ampio delle armi da fuoco in funzione di ordine pubblico. Questo rimarrà vero e ritornerà poi in maniera anche più massiccia, forse negli anni 70, in forme molto diverse. C'è molta ricerca storica ancora da fare su questi temi, sicuramente però sono dei punti di grande interesse. Noi in quel numero della rivista naturalmente siamo arrivati poi a considerare anche le vicende più vicine a noi, quindi Genova 2001, il fatto che dopo molti anni in Italia si sia tornati ad uccidere in piazza con Carlo Giuliani. Anzi, è proprio nel contesto dell'Unione Europea, anche se poi, ora facciamo una piccola parentesi sul presente, anche perché proprio l'editoriale del numero 20 penso colga anche quello che stavi appena dicendo rispetto alla fase del centro-sinistra. È interessante rileggerla nell'oggi, per quanto ovviamente le ipotesi in storia, ovviamente fare ipotesi diciamo di collegamenti finché sono strampalati non ha senso, però la dinamica di allargamento della sfera del potere che proprio nell'editoriale viene citato come chiusura determina effettivamente per molti anni effettivamente in Europa, nell'Unione Europea, in Europa occidentale, una trasformazione della gestione delle piazze. Dopo Carlo Giuliani e Genova 2001 invece abbiamo assistito a un continuo uso della forza in termini anche brutali, a rischio della incolumità dei manifestanti. L'abbiamo visto a Londra nelle proteste dell'anno passato, in Grecia è un uso continuo delle armi da fuoco contro le proteste, quindi diciamo che ci troviamo di fronte forse a una e ulteriore trasformazione del paradigma repressivo e della gestione dell'ordine pubblico dei movimenti. Non so se hai voglia anche di una piccola digressione intorno a questa, diciamo, questa lettura del presente con gli occhi del... Beh sì, mi sembra decisamente importante. Tu hai accennato giustamente anche alla Gran Bretagna, che è un caso significativo, che nel 2009, durante proteste contro i vertici internazionali in Gran Bretagna, sia morto un manifestante, è un fatto di eccezionale gravità anche alla luce della storia politico-istituzionale della Gran Bretagna. Ora io non so dire quanti anni o decenni fossero che in Gran Bretagna non accadeva un episodio di questo tipo. Io credo, e questo era un po' l'argomento che abbiamo cercato di sviluppare io e Luigi Ambrosi nell'editoriale del numero 20 di Zapruder, l'argomento importante è proprio quello del potere. Cioè io credo che nella situazione attuale diventi sempre più visibile come la logica delle istituzioni, la logica dei governi che indirizzano l'azione delle forze repressive in piazza, si misuri con una divisione molto forte, e cioè ci sono forze organizzate, movimenti, partiti che vengono riconosciuti in qualche modo come parte del mondo politico ufficiale. Le grandi organizzazioni sindacali, i partiti rappresentati in Parlamento. C'è poi un'area molto variegata che in realtà abbraccia componenti politiche e ideologiche molto diverse, dalle organizzazioni non governative a organizzazioni politiche minoritarie di estrema sinistra, che non hanno rappresentanza politico-istituzionale e che quindi continuano a essere viste di per sé come un elemento potenzialmente pericoloso. Basta vedere qual è il tipo di atteggiamento preventivo che le forze di polizia hanno in tutti i paesi industriali avanzati in occasione delle manifestazioni di protesta contro i G8, i G20. Ormai è un cliché che si ripete in maniera regolare, credo che anche a Toronto nei giorni scorsi sia stato si sia visto lo stesso cliché. Ormai c'è un meccanismo all'interno del quale poi si muovono anche componenti dei movimenti particolari come quelle a cui viene dato convenzionalmente il nome di Black Blocs. Però il quadro è sempre quello di una blindatura di alcune aree delle città, una scarsissima disponibilità alla mediazione, al confronto, e un intervento duramente repressivo nei confronti di manifestanti che hanno atteggiamenti per lo più assolutamente pacifici. E questo direi che però rimanda a, purtroppo, alle caratteristiche del sistema politico attuale, cioè chi è rappresentato nelle istituzioni è una cosa, chi non è rappresentato nelle istituzioni, fossero anche organizzazioni non governative di matrice cristiana, sono una cosa completamente diversa. Senti, io non so se tu hai ancora un minuto per un'altra, diciamo, per un'altra sfaccettatura. Quella l'avevamo accennata tornando al 1960 e alle giornate genovesi di quegli anni, al 30 giugno, in realtà appunto a quello che abbiamo visto essere un processo sicuramente più lungo e complesso. La composizione delle piazze è uno degli elementi caratterizzanti di quelle giornate. Tornano a all'iniziativa i vecchi partigiani, sono presenti i partiti, si muovono anche i giovani. È un po' l'elemento chiave forse di quella fase, perché ovviamente poi erano cambiate anche i meccanismi della socializzazione, sono cambiate le aspettative, comunque si inizia a vivere una fase di benessere sulla quale effettivamente si pensava cambiata forse anche la cultura di massa dell'Italia, appunto da poco entrata nella fase repubblicana. Eppure i giovani sono protagonisti di quelle giornate, come lo saranno anche di Piazza Statuto due anni dopo. Vuoi dire qualcosa rispetto a questa composizione, a questa trasformazione, alle relazioni fra le varie generazioni in piazza in quei giorni? Sì, questo è indubbiamente un aspetto importante. Siamo nel 1960, cioè siamo nel pieno di quello che è rimasto famoso con il termine di miracolo o boom economico. Nella seconda metà degli anni 50 e i primi anni 60 avviene una trasformazione di tipo economico, sociale e produttiva in Italia estremamente significativa, che, ricordiamolo, comporta anche un fenomeno migratorio interno, in genere dal sud, dalle regioni del sud verso le aree industriali del nord, molto significativo. E quello che colpisce già nelle cronache dei giornali dell'epoca, viene rilevato dai giornalisti, dagli osservatori dell'epoca, è il fatto che ci sono delle figure nuove in piazza, venivano descritti come i ragazzi dalle magliette a strisce, proprio in occasione di Genova, poi la cosa ritornerà anche a Piazza Statuto a Torino due anni dopo. Sono ragazzi giovani, giovani vuol dire che hanno attorno ai 20 anni, e cioè sono nati magari tra la fine degli anni 30 e i primi anni 40, non hanno vissuto in età adulta l'esperienza della guerra di liberazione, della resistenza e via dicendo. In parte sono immigrati nel nord, e sono per lo più, quasi tutti direi, sono operai, artigiani, apprendisti, e questo è un dato molto importante, perché devo dire che in quel periodo non c'è ancora una forte visibilità nei movimenti sociali e nelle piazze di un elemento studentesco. Quello verrà alcuni anni dopo, a ridosso del 68. Lì abbiamo invece una composizione sociale che è tutta operaia, sono giovani apprendisti, e questo costituisce anche un problema per le organizzazioni del movimento operaio, che faticano molto, come sappiamo, a prendere atto di questo fenomeno, a riconoscere esigenze, culture, bisogni di questi operai più giovani. Emblematico è quello che succederà poi in Piazza Statuto, dove ricordo brevemente, nel corso di una vicenda sindacale in cui la UIL e il sindacato aziendale a Torino, il SIDA, avevano firmato un accordo separato, ci fu una manifestazione spontanea di operai che in Piazza Statuto, dove ha sede la UIL, vi furono degli incidenti, fu tentato l'assalto alla sede della UIL. Bene, in quella occasione gli stessi partiti di sinistra, Partito Comunista Italiano, Partito Socialista, indicarono in questi giovani operai con le magliette a strisce, accaldati, disponibili allo scontro con la polizia, un elemento un po' pericoloso, un elemento incontrollabile. Questo è un altro aspetto decisamente molto importante, che noi ritroveremo poi nei conflitti operai della fine degli anni 60 e degli anni 70. Va bene, mi sembra particolarmente esauriente, tra l'altro, questa parentesi doverosa, pensiamo, su Genova 1960. Se hai da aggiungere qualcos'altro, altrimenti ti lasciamo ai tuoi impegni, ringraziandoti tantissimo. No, sono io che ringrazio voi di questa opportunità. Va bene, allora ovviamente ci sentiamo in contatto, ricordiamolo, appunto, abbiamo ascoltato Marco Scavino della redazione di Zapruder, curatore del numero 20 Diritto e Castigo su movimenti e ordine pubblico in età contemporanea. Grazie mille. Un saluto a tutti. Un saluto. Ciao. Ciao. Time not long ago, when people were still living in the northern zone, they could still breathe and everybody wasn't dead. Somebody recorded a song, this is what it said. After the first and the second world wars, you think us Europeans couldn't take it no more. But we built up and tore down a Berlin Wall, only to build a new and improved around a crumbling fort. This one was a bit tricky, not visible to the naked eye, and if you was lucky, you could slip through the cracks and the crevices tucking your life under your arm. This way some people snuck in, only to become second class citizens, not listed in the system, not existing in a sense, illegal immigrants. A word left a bit of scent, this place is cold and evil, I should've never went to Fort Europa. My so-called utopia, where I can't find no culture. Feel the walls getting closer and closer and closer. Right here in Fort Europa, where I can't find no culture. Feel the walls getting closer and closer and closer. I'm getting overrated, dreamt of superpowers. Wanted to roll with the bad boys, but got fucked in the showers. Too scared to hold our own ground, can't beat them, join them, we down. Stay with the winning team, my enemies bring in another round. And bought himself while they drown. Invitations at the door, members only, no hangarounds. Inside the fortress of finance, we appreciate the less fortunate's finance, as long as she look high class. And that's the problem with swallowing for the almighty Euro. But you know, we put a brother's side of business, though. Make sure they're not leaving that boat, but lose a rope of a life inside the fort, send them back home and so forth. Cause we got employment issues, we got kids of our own. Trying to tear down the wall with chrome and black ink flow. Keep them out at all costs, this ain't the time to go soft. We stand united, or this soon we'll be lost inside. What's your road? The so-called utopia, where I can't find no culture. No. Till the walls getting closer and closer and closer. Right here in Fort Europa. Right here, right now. Where I can't find no culture. Till the walls getting closer and closer and closer. to the riches, we're hitting for. E allora alle 12.50 ci avviamo anche verso la chiusura di questa puntata, prima però con una finestra su una due giorni che proprio sotto le studio della radio avrà luogo nella giornata, appunto nelle giornate di giovedì e venerdì, ovvero la due giorni in ricordo di una persona particolarmente cara anche a chi parla, a questi microfoni in generale, anche per l'attenzione e lo studio rispetto alle tematiche di cui ci occupiamo settimanalmente. Stiamo parlando naturalmente di Valerio Marchi, a 4 anni se non sbaglio dalla sua scomparsa, e siamo al telefono con una delle compagne che sta organizzando questa due giorni. Intanto verifichiamo se ci senti. Ci sei? Ci sono. Buongiorno a tutti e a tutti. Buongiorno a te. Allora, noi, come ci dicevamo anche fuori onda, cogliamo anche adesso l'occasione per ricordarlo, andremo a raccontare un po' più nello specifico e approfondiremo un po' di più questa due giorni sicuramente nella giornata in cui inizierà, ovvero nella mattinata di giovedì. Ne andremo a parlare con te, ma anche con altri ospiti e partecipanti appunto alle varie iniziative, mentre adesso ci piaceva, almeno da questa trasmissione, visto che poi spesso abbiamo anche citato Valerio e in qualche modo i suoi libri sono stati anche strumenti di formazione per noi, ci andava quantomeno di ricordare quali sono gli appuntamenti proprio da questo spazio. E magari se tu vuoi raccontarci proprio così in 2 minuti come mai, cioè come nasce la due giorni di quest'anno e poi quali saranno appunto gli appuntamenti. Ma guarda, in realtà è stata anche un'idea che è nata un po' serpeggiando sotterraneamente, è successo che in diverse occasioni negli ultimi mesi ci si è ritrovati anche a cominciare a parlare di quello che poteva essere uno degli elementi più cari poi al lavoro di Valerio, che era appunto lo stadio come laboratorio di repressione sociale, e cominciando a parlare ed affrontare questo argomento più a livello soggettivo anche all'interno del movimento, ci si è resi conto che a distanza di quasi 4 anni, perché in realtà Valerio è morto il 22 luglio del 2006, ma ovviamente Roma sarebbe stata deserta in quell'occasione, quindi si è preferito anticiparla, e si è resi conto di non avere ancora fatto un omaggio in qualche modo organico a tutto il lavoro che Valerio ha fatto, e che anche purtroppo legato molti dei suoi libri sono ormai fuori produzione, quindi non girano più, e si rischiava di perdere un po' tutto il lavoro che aveva fatto questo, che essenzialmente è stato un intellettuale di strada, perché è stato principalmente attore protagonista degli stessi movimenti, sia sottoculture che controculture, che poi è andato a raccontare con un punto di vista molto particolare, perché Valerio sapeva miscelare perfettamente insieme quello che era il sapore della strada e delle esperienze personali che lui si era ritrovato a vivere in prima persona con quelli che erano gli studi un po' più accademici, anche se poi parecchi l'hanno chiamato sociologo oppure storico. In realtà Valerio non si è mai laureato, quindi la sua formazione è una formazione di tipo molto particolare, no? Che si iscrive anche proprio in un periodo storico determinato, che era quello di fine anni 80, inizio anni 90, quando proprio, diciamo, le vecchie guardie di determinate sottoculture iniziano a prendere in mano la storia delle proprie sottoculture, a cominciare a narrarla in un modo differente da quello che possono aver fatto sociologi e diciamo anche giornalisti, che tendevano molto spesso a stigmatizzarle. Ovviamente 2 punti centrali del lavoro che ha fatto Valerio erano quelli sulle sottoculture di strada, in particolare sugli skinheads, i punk, con un occhio molto attento anche a tutta l'analisi che è stata appunto quella di cui accennavi te prima, quindi il lavoro sulle destre sociali europee, sul nuovo arrivo delle destre, su come queste destre poi hanno saputo anche infiltrarsi all'interno di queste sottoculture, e ovviamente sullo stadio poi. Un lavoro che probabilmente, questo è quello forse meno capito e meno studiato all'interno del movimento fatto da Valerio, eppure i suoi libri, soprattutto il Derby del Bambino Morto, diciamo che segnano una pietra miliare dal punto di vista dell'analisi e della comprensione del mondo ultra come una vera e propria controcultura, e dei meccanismi di repressione che si sono andati a scatenare poi su questo movimento, e che mancabilmente poi possiamo anche ritrovare nella sinistra. E poi tra l'altro questo forse è l'aspetto in cui Valerio ci manca di più, proprio perché poi negli ultimi anni, dalla famosa, se vogliamo dare anche una data per risalire, dalla famosa Palermo-Catania, insomma, poi si è visto quanto effettivamente lo stadio abbia avuto questa funzione di laboratorio di repressione e tutta un'altra serie di cose che Valerio sicuramente avrebbe saputo raccontare ed analizzare meglio di quanto è stato fatto probabilmente finora. Oh no, questo assolutamente, infatti diciamo che la necessità viene pure dal fatto che davanti all'introduzione, cioè dal 2007 in poi, ovviamente c'è stato un inasprimento pesantissimo, no? E non soltanto per la morte di Raciti, ma soprattutto per l'omicidio Sandri, che ovviamente è stato visto anche l'essere identificato come un tifoso, come un ultra, probabilmente scatenato, no? La violenza che ha portato all'omicidio, e conseguenzialmente è stata una morsa repressiva fortissima che si sta espandendo ancora di più adesso con l'introduzione della lettera del tifoso, che è un meccanismo liberticida che va a colpire non soltanto il mondo ultra in senso propriamente stretto, ma anche tutti quanti i tifosi, quindi vediamo come si comincia già ad allargare, no? Come meccanismo di repressione, e ovviamente cercando di analizzare quello che stava accadendo, guardandolo anche in chiave di lettura per quello che potrebbe accadere in altri aspetti della società, come ci insegnava Valerio, quindi sinistra, migranti, consumatori di sostanze in primis, è la prima cosa che viene spontanea: cosa avrebbe detto Valerio se ancora ci fosse stato, cosa ci avrebbe raccontato, come ce lo avrebbe analizzato, e quello sì è sicuramente un punto in cui manca assolutamente. E poi vabbè, ovviamente saranno stati da qua, comunque è nata l'esigenza di chiamare i protagonisti di queste, sia delle sottoculture che delle controculture che si andranno a narrare, per far parlare loro in prima persona, non tanto per fare all'interno del movimento un'analisi di quelle che sono state le teorie di Valerio e le sottoculture e le controculture che ha vissuto e che ha analizzato, ma quanto di cominciare a fare quello che Valerio ci aveva insegnato, ovvero iniziare a guardarle da vicino senza nascondersi dietro a categorie interpretative magari anche vecchie o che comunque non sono assolutamente consone per inquadrare questi movimenti. Assolutamente, guarda, io se adesso vuoi anche raccontare, visto che poi nonostante ci eravamo detti 2 minuti, il tempo comincia a stare agli sgoccioli anche per noi, se vogliamo andare a raccontare quali sono nello specifico poi come si articola questa 2 giorni. Guarda, la prima sarà ovviamente giovedì 1 luglio, si partirà alle 18, grosso modo, è dedicata a Skins e Punks, storie ed aneddoti delle sottoculture. Introdurrà il Duca, quel bardo metropolitano romano, ci saranno Filopat, Pedrini, forse che è meglio noto come Vuming 5, e Caldironna, e poi verranno comunque proiettati una serie di documentari e di video, tra cui c'è Goodbye Skinhead Girl, che è fatta da Shano Woodward, che è appunto un punto di vista sulle skin inglesi. Riproporremo ovviamente, ora da vedere, da capire se la versione è lunga o quella breve, della splendida intervista fatta a Valerio Marchi sull'estrema destra in Europa, e ci sarà anche un video in memoria di Roberto Massi, che magari conosciamo un po' tutti meglio come patata. Il secondo giorno invece si incentrerà proprio sulla controcultura ultra fra antagonismo e repressione, poi magari su questo avremo modo di parlarne un po' meglio più tardi. Lo introdurrà Marco De Rose, che è delle librerie internazionali, ovvero uno dei ragazzi che ha rilevato la libreria che apparteneva proprio a Valerio Marchi. Anche lui, come Valerio, fa parte, cioè comunque molto vicino a quel movimento ultra. E poi ci saranno Lorenzo, cioè l'idea poi appunto, poi ci saranno una serie di rappresentanti delle realtà ultra italiane che hanno comunque lavorato a lungo su questo mondo, a partire da Lorenzo Contucci, che è un avvocato, il webmaster del sito esteromaultras.org. Ci sarà Claudio Dionesaldi di Cosenza, Andrea Ferreri, che è l'autore di Ultra, i ribelli del calcio, uscito da pochissimo, nonché un ultra del Lecce, Matteo Zangardo del gruppo Sostegno Zenideale di Venezia Mestre, Paolo Foga dei Fidain di Roma, Tonino Dorello della Curva Est della Ternana, Vincenzo Badantuono, che è un ultra juventino, curatore del blog ultrasblog.bix, e Antonio Argentieri, che è un ultra del Catanzaro, curatore del sito di Terramara. Ognuno di loro, e una serie di rappresentanti delle realtà ultra italiane, ognuno di questi che sono chiamati a parlare sono stati legati in un modo differente comunque al lavoro di Valerio, o per il contatto, per la conoscenza diretta, o per quello che poi ha significato il lavoro di Valerio, la presenza e l'incontro con lui nella loro vita stessa di ultra e di persone. E ovviamente poi seguiranno una serie di video, tra cui ci sarà il video sul corteo contro la destra del tifoso che c'è stato a settembre a Roma, Football, che è un'intervista fatta a Valerio Marchi, però è una delle ultime interviste fatte proprio sul mondo ultra, dove in una manciata di minuti ci si rende perfettamente ancora conto dell'attualità delle sue teorie. E poi ci sono una serie di altri video autoprodotti, come Presa della Parola, fatto dal progetto Non Plus Ultras qua a Roma, la controcultura con il Sud Ribelle, fatto sempre da Marco dei Rebel Fans di Cosenza, e il Stadio del Bai, che è fatto dall'associazione Football Ribelle, e una serie di altri video autoprodotti e delle immagini e redazioni che racconteranno la storia del CUPS, che è il più grande gruppo organizzato, sicuramente più famoso, che c'è stato a Roma. Questo, diciamo, in grosso modo quella che sarà la giornata. Tu sei stata estremamente esauriente. Poi per tutto il resto ovviamente sei invitata anche te giovedì mattina per raccontarla un po' anche in maniera un po' più approfondita. Io non so se tu hai qualcosa da aggiungere o se ci diamo direttamente appuntamento a giovedì. No, ci piacerebbe soltanto che fosse il più, insomma, per fare questo omaggio a Valerio Marchi, che fosse una presenza più partecipata possibile durante queste due giornate di incontri. Ovviamente questo anche da parte nostra, insomma. Dai, ti ringraziamo. Grazie a voi e ciao. Buona giornata a tutti. Ciao. Sulle note dei Clash andiamo a chiudere questo appuntamento di martedì 29 giugno 2010. Maldestra, l'osservatorio antifascista di Radio Onda Rossa, vi saluta e praticamente arriviamo quasi a un saluto definitivo per questa stagione, che ormai ho perso il conto, se non è la sesta sarà la settima, comunque ormai una trasmissione con una certa longevità che appunto chiude, arriva quasi a chiudere un ennesimo anno insieme. Probabilmente avremo qualche altro appuntamento più tematico e monografico, un po' più light per luglio, dopodiché ce ne andremo tutti diciamo in vacanza, almeno per quanto riguarda la trasmissione. Detto questo, ricordiamo i riferimenti web, almeno per quanto riguarda la radio, www.ondarossa.info come per quanto riguarda Onda Rossa, e maldestra.noblogs per quanto riguarda questa trasmissione, per poter riascoltare anche le vecchie trasmissioni. Con questo chiudiamo e un abbraccio a tutti e a tutte.